Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, a chi volete che importi, perché non ci prova lei? Due domande, due asserzioni in programma oggi, con in più il senso unico della citazione sbagliata.